poi, una mattina di novembre, finiva la storia sbagliata di Pierpaolo. Il suo corpo abbandonato sulla sabbia di Ostia, come una bottiglia arrivata dal mare, piena di messaggi ancora da scrivere, ma che nessuno potrà leggere mai. Come una bottiglia arrivata dal mare, ma proveniente dal futuro. Non glielo avrebbero perdonato quel suo essere uno spacciatore di sensibilità, quel suo essere uno spacciatore di felicità. Era un angelo che ci insegnò la crudeltà, un blasfemo che ci insegnò la santità, era un barbaro che ci insegnò la civiltà, un afasico che ci insegnò a parlare. Era arrivato come una scomoda realtà, qualcosa che conosci ma non vuoi vedere, per mostrarci l'altra faccia della lupa, un mondo che nessuno voleva vedere. Qui è Radio Lice, stiamo ancora aspettando che arrivino gli avvocati per poter far entrare la polizia. C'è la polizia che sta tentando di sfondare la porta in questo momento. Capì davanti a quell'orrenda vista che trattavasi della Democrazia Cristiana che si mangiava il Partito Socialista. Immantinente appresi da quei pianti, che quella era la cerchia dei mangioni.